Italia in controluce. Il 21 dicembre, vi parla Daniele Biacchessi, siamo tutti i giorni con due edizioni, 6.30 e 13.30, un programma di reportage e di inchiesta sulla cronaca, ma anche sulla politica del territorio e sulla società italiana. E la terza puntata del Viaggio d'Italia in controluce tra i Bretacci. Oggi siamo ancora a Milano, ieri Don Mazzi, l'altro ieri con Don Gallo. Giacomo Secantini intervista Don Gino Rigoldi da Milano. Sono andato in seminario la prima volta e ho detto: ma questo posto qui di matti non ci vengo manco morto, figuriamoci, sembravano gente del secolo prima. Una volta, due volte, tre volte ho finito per andarci, insomma tutte le volte con grande disgusto, poi ho finito per entrarci dentro. Ci sono stato 7 anni, ho finito l'iter, mi ha chiamato il vescovo che era il rettore del seminario e mi ha detto: guarda, tu secondo me non sei adatto a fare il prete. Critichi anche il Papa, sei ancora un seminarista, figuriamo. No, i tuoi compagni diventano prete e tu no. Vai a fare il vice rettore in questo collegio arcivescovile per ragazzi con qualche mezzo, insomma, a Varese, De Filippi, e vediamo lì cosa combini. L'alternativa era o nuotare o affogare. Ho imparato a nuotare. Già lì però a Varese, siamo nel 67, c'erano parecchi ragazzi che venivano dal sud con la valigia di cartone e dormivano da tutte le parti possibili, un po' come adesso per gli stranieri, e questa cosa mi sembrava così ingiusta, così sbagliata, così non buona. E siccome in questo collegio per ragazzi ricchi, insomma, c'erano delle stanze vuote, io ho cominciato più o meno di nascosto a instarci questi ragazzi che venivano dal sud. Qualcuno si lava i piedi finalmente dopo un mese che era in giro, il rettore mi pare che facesse finta di non vedere. Dopo 4 anni sono andato in parrocchia, anche lì in parrocchia arrivava un sacco di gente, allora c'erano il comitato anti-imperialista e tutta erano i quadri del 72, no? Per poco, no? Per cui giravamo in parrocchia, c'erano tutte sere piene di 40, 50, 60, 100 questi eschimi e barbe e compagnia bella. Già frequentavo gente non tanto per l'acquario, insomma. Sono stato lì 2 anni e mezzo, ho fatto un sacco di amici tra i residenti, parlo dei parrocchiani di lì, ma poi quando il mio stile di accogliere tutti, di andare in tutti i posti più sgangherati, più strani, a vedere cosa succedeva, a mettermi in discussione così, mi metteva a rischio che il beccaria è arrivato, che c'era il posto, ho chiesto, penso che un po' di gente ha tirato un respiro di sollievo e sono qui ancora dopo 40 anni. Che genere di ragazzi si è trovato davanti al carcere minorile Beccaria? Allora, il carcere minorile Beccaria allora era un tempo veramente eroico, voglio dire che giravano al Beccaria mediamente 1000 ragazzi l'anno, erano tutti e solo ragazzi provenienti dal sud oppure figli di gente proveniente dal sud. C'erano 3 educatori e uno era il direttore, il cappellano e un direttore a metà tempo per tutti questi ragazzi qui. Voleva dire lì dalle 8 alle 8 di mattina, alle mezzanotte di sera, insomma. Erano ragazzi provenienti dal sud, erano ragazzi anche molti con una cultura molto muscolare, un po' violenta, però a me pare che fossero ragazzi qui comunque pensavano di poter avere un futuro. Cioè, magari praticavano delle scorciatoie oppure rifiutavano un po' l'umiliazione, quei lavori un po' da poco che toccavano ai loro genitori, però avendo l'idea che insomma avrebbero fatto una famiglia e poi un lavoro e poi dei figli e poi una casa, in questo contesto dove anche l'educatore era più un consigliere, uno che ti dà una mano per fare le cose, insomma, no? E poi tu le fai tu e vai per conto tuo con la tua famiglia e così via. Ed era muscolare con un ottimismo abbastanza significativo. E poi dopo c'erano certi fenomeni tipicamente adolescenziali, l'ultimo della fila vuol fare l'impresa e quindi fa reato, oppure è dentro in certi quartieri dove ci sono dei capiscuoli importanti, si chiamano i Paminonda Valanzas, che tu limiti e fai quei gesti lì perché devi anche tu trovare uno spazio nel pubblico. Però lei a un certo punto comincia, diciamo, ad aiutare questi ragazzi anche nel momento in cui escono dal carcere, giusto? La solita logica, io vedo che anche in comunità nuova, facciamo un po' così, noi rispondiamo al bisogno che ci viene davanti. La sera questo ragazzo Angelo mi dice: io ho ascoltato le tue parole, sei molto simpatico, sono d'accordo con te, ma io stasera non ho un posto dove andare a dormire, apro una macchina in qualche maniera, poi mi metto a dormire lì, dopo il mi becca ritorno qui domani mattina. Beh, loro abitavo qui dentro la Beccaria, un appartamento autonomo con uscita autonoma, e avevo 2 camere da letto, ma da guerra, perché vai via, scusa, io ho 2 camere da letto, dormo io, uno cambio ci vai tu, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando sono arrivati circa i 25, 30, ho detto alt, questo non è più un'accoglienza, è una confusione, è un disastro. E lì sono nate le prime comunità alloggio a Milano, perché abbiamo 7-8 ragazzi con due o tre educatori negli appartamenti normali della città, e ci scendi comunità alloggio per minori. Come si è evoluto poi tutto il movimento, come si è arrivati all'attuale comunità nuova? Che è successo? Che a un certo punto tre ragazzi che io ospitavo, è arrivato da qualcuno un po' stordito, mezzo massonnato, oppure tutto eccitato. Io sapevo che c'erano le droghe, ma insomma non avendole mai incontrate direttamente erano soltanto una notizia. A Baggio non c'era tanto l'eroina, c'era piuttosto la morfina, le medicine con della morfina, il capriodol di codina, il pera con il talvin, e poi c'era in giro anche tanta anfetamina. A quel tempo drogarsi era un reato, ci si drogava andava in galera. E allora siamo andati a Milano dal professor Maded e a Torino da Luigi Ciotti per imparare. Già avevo messo insieme con me un po' di volontari, volontarie, e qualcuno che veniva anche assunto, per cui c'era già un po' di persone, e allora ho imparato un po', abbiamo cominciato per la droga. Poi dopo, più in là, andando avanti, poi gli stranieri, man mano che arrivavano le persone con dei problemi diversi, arrivava la risposta, cercando di essere accoglienti ma anche professionali, perché poi ciascuno ha la sua specificità, il suo problema, ha bisogno di risposte. Tutto il discorso droga voleva dire risposte sanitarie, risposte poi psicologiche, risposte di disassociazione della sostanza, quindi c'erano tanti problemi che bisognava imparare, e anche collegamenti da stabilire, perché la parte sanitaria la dovevano fare degli altri. Sempre così siamo andati avanti, con gli stranieri la stessa roba, e in particolare i nordafricani, soprattutto nordafricani, sudamericani, albanesi, in casa mia ce n'ho ancora, albanesi, nordafricani, sudamericani anche fuori nei gruppi di loro appartenenze, ma anche poi anche con i marocchini, anche nei gruppi dove questi ragazzi si incontrano, e si può gestire un gruppo. Ecco, tornando invece ai ragazzi, secondo lei da quando ha cominciato, com'è cambiato il disagio giovanile in questi ultimi decenni? Intanto certi fenomeni sono sempre poi quelli, per esempio, che l'adolescente deve dimostrare al mondo di esistere, annusa un'avventura e gli pare che non avendo regole morali, oppure perché è tirato dentro dalla gola di avere dei soldi o di avere qualche piacere. E queste cose qui sono cose che ci sono da sempre. Adesso in mente un paio di cose. La prima, che è forse la più dura, ed è che molti di loro fanno rapine per dare da mangiare alla famiglia, per superare una situazione di povertà forte. Noi adesso a Beccaria abbiamo soprattutto ragazzi italiani, molti di questi ragazzi, anche quelli che vengono dai famosi quartieri ghetto, quelli dove c'è la criminalità consolidata, fanno rapine, non che la famiglia gli mandi a rapinare, per l'amor del cielo, assolutamente no, per dar da mangiare alla famiglia. Il mio dei ragazzi di lì è proprio case occupate, quindi con la possibilità di sfratto, cosa che sta avvenendo in questi tempi, disoccupazione, e questa è una parte. L'altra parte è piuttosto grossa. Intanto sono ragazzi e ragazze molto confusi relativamente a quello che è giusto fare, tanto alla loro persona e al loro futuro, cosa sanno fare, cosa potrebbero fare, e poi anche riguardo a dove mettersi nel mondo. Allora, un po' il bisogno, un po' il fatto di vivere una cultura molto individualista, dove il mio circuito familiare è sacro, ma fuori dall'amorosa famiglia gli altri sono estranei, e quindi tutto sommato non sono così importanti da doverli assolutamente rispettare nei loro beni o la loro integrità personale. Quindi perché hai dietro questa cultura qui altamente individualista, che valorizza poco le persone, legate quindi soltanto agli affetti. E questi sono comunque ragazzi tutti che hanno di sé una bassissima immagine del proprio futuro, poco niente, una grande richiesta di adultità vicina, e poi i ragazzi del sud chiedevano un consigliere, uno che li accompagnasse a. Poi si chiedono un amico o un'amica con delle richieste affettive impressionanti. I ragazzi di oggi sono molto soli, e molte volte, anche se c'è la famiglia, si sentono comunque che nella vicenda della vita, non soltanto per il mangiare, per il dormire, sono assolutamente soli, e anche per il senso da dare alle scelte che fanno sono molto soli. Se trovano qualcuno che gli dà fiducia, che gli dà valore, che dà risposte di senso, c'è l'attaccamento e una richiesta affettiva mai vista come in questi ultimi anni. Quali sono i suoi strumenti del metodo Don Rigoldi? È quello della relazione, essere capace di guardare, di ascoltare, di cercare di capire dietro le parole, dietro la faccia, che cosa c'è, e poi di usare le parole in modo che l'altro capisca che tu gli dai valore, ma non vuoi invadere il suo privato. Non c'è nessun guadagno di nessun genere, ma stai un po' con lui. Se l'altro sente che tu gli dai valore, l'altro c'è. Se sente che tu, quando gli parli, parli proprio a lui, non stai inventando un qualche discorso che potresti fare a lui e a 100 altri, ma Però vede, io credo che ci sia anche un'altra cosa, che è questa, che va così. A me pare che a me riesce bene fare una roba del genere, perché io ho un po' di gente, uomini e donne, ragazze e ragazze, ai quali voglio molto bene, e un po' di gente alle quali sono voluto bene. E nel senso che niente, la richiesta affettiva che mi viene fatta è molto grande. Io ho poche richieste affettive, cioè, no, poi c'ho le mie simpatie, io mi affeziono anche alle persone, ma non è mai per fame, no? Ma è per condivisione. Del resto, se una persona è tranquilla perché è voluto bene e vuole bene a un numero limitato di persone, da lì parte la sua capacità di voler bene a tanta gente. Italia in Controluce, la seconda edizione, vi ricordiamo due puntate, 6:30, 13:30. Torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.